Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati a questo primo appuntamento con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Ogni anno migliaia di giovani lasciano l'Italia per emigrare verso altri paesi. Si tratta per lo più di professionisti, con laurea e master alle spalle. Di loro sappiamo poco. Li potremmo tratteggiare grosso modo come giovani tra i 20 e i 40 anni, i quali scelgono per andarsene soprattutto l'Europa e gli Stati Uniti. È un'emigrazione in giacca e cravatta, di qualità. Un'emigrazione lontana anni luce da quella delle valigie di cartone che i libri di storia ci hanno consegnato, incarnata da uomini e donne che partono non per fame o necessità, ma per raggiungere quei traguardi professionali e realizzare quei sogni che vengono loro troppo spesso preclusi in Italia. Giovani Talenti indagherà a partire da oggi e ogni sabato alle 15 su Radio 24 su questo fenomeno, che è tutt'altro che nuovo, anche perché ad emigrare non sono solamente i ricercatori. Quanti sono i giovani professionisti italiani che lasciano il bel paese ogni anno? Lo sapete che la metà dei quasi 4 milioni di connazionali residenti all'estero si è iscritta all'anagrafe degli espatriati solo nell'ultimo decennio? Cosa spinge tanti ragazzi e ragazze ad abbandonare l'Italia, la famiglia, gli amici, la città di una vita? E cosa trovano oltre frontiera? Soprattutto, è questa l'unica uscita di emergenza disponibile per l'attuale generazione di ventenni e trentenni italiani? Quando sono arrivato in Francia ho trovato uno di questi concorsi, ho partecipato, non conoscevo nessuno e hanno ritenuto che in base alla mia abilità potessi prendere quel posto e mi hanno dato questa fiducia pur non avendo avuto nessuno contatto prima e non conoscendomi. Andrea Turra, pianista trentenne, è la prima storia di Giovani Talenti che ascolteremo tra poco. Ora spazio al nostro notiziario. È attivo da poco più di un mese il sito internet dedicato ai giovani connazionali nel mondo. Si tratta di un social network disponibile all'indirizzo www.giovaniitaliani.it che consentirà ai giovani residenti all'estero di mantenere e allacciare i contatti tra loro. Quattro i canali tematici a disposizione, il primo relativo a studio-lavoro, il secondo sul tempo libero, il terzo sugli eventi e l'ultimo su notizie utili e aggiornamenti. Oltre la metà dei cittadini italiani residenti all'estero è costituito da giovani al di sotto dei 35 anni. Il 60,6% degli under 35 è concentrato in Europa e tra loro sono numerosi i neolaureati che hanno lasciato l'Italia per cercare all'estero migliori opportunità. A evidenziarlo è un recente studio della regione Veneto. I giovani veneti si orientano soprattutto verso il Regno Unito, la Francia, la Spagna e gli Stati Uniti. La quota di laureati che si trasferiscono all'estero rappresenta circa il 3% del totale. E secondo l'ultimo rapporto della Fondazione Migrantes, sono circa 4 milioni i nostri connazionali all'estero. Più della metà, il 54%, pari a circa 2 milioni, è costituita da giovani al di sotto dei 35 anni. Ma l'emigrazione di giovani professionisti non riguarda solo l'estero. Un recente studio di Banca Italia ha messo in rilievo come tra il 2000 e il 2005 hanno lasciato il sud del paese ben 80.000 dottori, pari a una media annua di 1,2 ogni 100 residenti in possesso dello stesso titolo di studio. E la prima storia di Giovani Talenti ci porta oggi oltre Alpe per raccontarvi la vicenda dell'esecutore di questa fuga in do minore di Johann Sebastian Bach. Sentiamo subito di chi parliamo. Nome? Andrea. Cognome? Turra. Età? 30 anni. Città di origine? Milano. Studi? Conservatorio di Milano. Anno in cui hai lasciato l'Italia? 2006. Per andare dove? Francia. Perché? Per dare un futuro alla mia vita. Quale lavoro svolge attualmente? Accompagno il balletto dell'Opera di Parigi. E dove lo svolgi? A Parigi. Tornerai in Italia? No, perché? Allora, quella che avete ascoltato era la presentazione della storia di Andrea Turra, un giovane pianista milanese che vince un concorso per il corpo di ballo dell'Opera di Parigi. Andrea, com'è possibile che tu sia dovuto emigrare per affermarti? Te lo chiedo perché ritengo personalmente strano che l'Italia, la culla mondiale dell'arte, finisca poi col disperdere centinaia di talenti musicali all'estero. Perché in Italia il mondo della musica, oggi come oggi, è un mercato molto ristretto. Tante orchestre chiudono, i teatri fanno molta fatica ad assumere, quindi oggi come oggi è molto difficile in Italia fare della musica la propria professione. Partiamo coi tuoi studi, cosa hai fatto? Ho cominciato

può essersi accentuata per i motivi detti in questi ultimi tempi, però è una cosa che va avanti nei secoli. Se vogliamo appunto risalire, un Domenico Scarlatti, per dire uno dei più grandi musicisti di ogni tempo, è dovuto emigrare a Madrid perché qui in Italia non riusciva ad affermarsi. Allora, Cimarosa, un Sarti, per dire, hanno trovato impiego in Russia. Professore, ma allora veramente abbiamo una colpa quasi storica? No, ma non è una colpa, è che se a un certo momento il mercato interno, per motivi su cui possiamo indagare, non riesce ad assorbire le eccellenze, è chiaro che queste eccellenze cercano spazio in altri luoghi. Ma è questo per dire, non per togliere responsabilità, ma per dire che è una situazione che ha tutta una sua storia. Anche nel Novecento, lei pensi negli Stati Uniti, quanti musicisti sono andati, non solo per questioni razziali, per dire, come Castelnuovo Tedesco, ma ci sono moltissimi che, non trovando spazi qui, sono andati all'estero. Andrea, tu cos'hai da dire su questo? Ma ho da dire che è vero che per un musicista fondamentale fare delle esperienze anche in altri paesi d'Europa o del mondo, nel senso che la musica si nutre veramente di tutte le esperienze che il musicista fa, quindi restare fermi nella propria casa, nel proprio appartamento non porta a molto. Però è anche vero che ci sono dei paesi, appunto io adesso sono in Francia e vedo queste realtà dove i musicisti locali sono veramente protetti, sono aiutati nella loro crescita professionale e musicale, a differenza dell'Italia che insomma lascia il singolo individuo fare il proprio percorso, crescere dal punto di vista artistico ma senza nessun aiuto, e questo a volte può essere molto molto difficile. Ecco, professore, Andrea secondo me sta un po' andando al punto, è vero quello che dice lei, però è anche vero forse che qui, se quasi la metà, diciamo, dei colleghi di Andrea sono dovuti emigrare, c'è un problema di mercato interno, un problema di fondi per la cultura. Perché? Ecco, io prima non ho detto che Andrea parlasse in termini errati. Stavo facendo una storia per dire che l'Italia ha sempre espresso un gran numero di eccellenze musicali che non sempre hanno trovato poi spazi proprio di lavoro qui in Italia. E può essere anche gratificante per noi il poter esportare dei valori nel mondo. Comunque, il problema è come mai c'è questa situazione interna, che è poi quella che esprimeva appunto Andrea Turra. Allora, direi che prima di tutto si sono ridotti negli ultimi anni spazi lavorativi. Se pensiamo che fino a 60-70 anni fa ogni cittadina aveva nel suo teatro, perché tutti avevano un teatro, una stagione lirica, ecco che è facile immaginare come potessero trovare posto maestri collaboratori, oltre a orchestrali, cioè c'era tutta un'attività che adesso, per motivi storici, per motivi sociali, eccetera, è venuta meno. Adesso, a parte alcuni grandi teatri, tutto il circuito, diciamo, lirico si è veramente depauperato, e questo è uno dei motivi per cui ci sono meno spazi. Un'altra cosa importante che ha detto Andrea Turra è quella dell'insegnamento. Io ancora sono di quella generazione che ha, diciamo, goduto di una posizione in un certo senso privilegiata, cioè ai miei tempi, per coloro che avevano una certa attività, che avevano dei numeri, diciamo, l'ingresso in conservatorio per insegnare non era difficilissimo. Da almeno 40 anni è praticamente impossibile, impossibile a grandi linee poter accedere. Professore, lei ha elencato i problemi, ma quale soluzioni potrebbe dare la vostra generazione a questi giovani? Le soluzioni, certo, ci potrebbe essere un'attenzione maggiore all'aspetto culturale. Se la società politica, cioè la società e di conseguenza la sua espressione politica, rivolgessero una particolare attenzione agli aspetti culturali. Noi siamo famosi nel mondo per la nostra arte, però dopo, quando c'è da fare il bilancio preventivo, diciamo, dello Stato, il budget per l'arte è piccolino, per non dire proprio limitatissimo. Sì, è quasi infinitesimale, su questo sono d'accordo questo, con lei. Ecco, questo è la chiave, diciamo, il perno in cui gira il discorso, perché se ci fossero più sovvenzioni per tutto quello che è artistico, quindi non solo musicale, dai musei poi ovviamente anche musicale, ecco che ci sarebbero di conseguenza più spazi lavorativi e di conseguenza tutto seguirebbe. Professore, io la ringrazio molto, grazie per essere intervenuto in questa trasmissione, in questa prima puntata di Giovani Talenti. In una battuta invece, Andrea, quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà, che sta pensando tra le varie vie d'uscita a un espatrio all'estero, andare o restare? Ma consiglio ovviamente di andare, di cercare di iscriversi in qualche scuola di musica per effettuare gli studi superiori in qualche università appunto all'estero, in scuole di alto perfezionamento all'estero, e di cercare di trovare una via, di cercare un concorso, di cercare un posto di lavoro all'estero. Purtroppo al momento la situazione è questa. E siamo giunti allo spazio dedicato alle associazioni e alle iniziative che si occupano di quella che possiamo definire come la nuova emigrazione. Nella prima puntata di Spazio Emigranti ospitiamo Guglielmo Vaccaro, deputato del PD e ideatore di una proposta di legge bipartisan PD-PDL per il rientro dei giovani professionisti espatriati. Si chiama Controesodo. Cos'è? È una iniziativa di legislatura. Abbiamo deciso di segnare il nostro impegno parlamentare insieme a alcuni colleghi di centro-sinistra e di centro-destra, dando vita a un programma che prevede la presentazione di 5 progetti di legge, 2 dei quali già depositati in Parlamento, che riguardano i talenti in movimento, i ragazzi italiani che sono in giro per l'Europa e per il mondo, quelli che si sono mossi da sud al nord sono tantissimi, i tanti ragazzi che dalle zone emergenti, le nuove grandi economie, l'India, la Cina in particolare, si stanno indirizzando per studi superiori in Europa, mettendo in piedi delle politiche di attuazione e così via, fino ad arrivare a un vero e proprio meccanismo di agevolazione per chi decide di investire in Italia, essendo un italiano che sta all'estero, i cosiddetti Italians. Di quali benefici potranno godere, nel caso poi questa proposta di legge passasse, venisse trasformata appunto in normativa, i giovani italiani espatriati che decidono di tornare? In particolare lo scudo fiscale per il rientro dei talenti prevede una serie di agevolazioni che variano a seconda delle iniziative che si vengono poi a realizzare. Chi rientra ha un'agevolazione fiscale fino a un massimo di 200.000 euro per tutte le dichiarazioni dei redditi dei primi 5 anni di attività. Ci sono poi delle agevolazioni per gli imprenditori che assumono ragazzi che sono stati via almeno 2 anni e che abbiano meno di 40 anni, che andranno di fatto poi a dividere l'agevolazione di 200.000 euro insieme ai futuri dipendenti che sono rientrati grazie a questa iniziativa di legge. Da cosa nasce l'iniziativa di legge contro esodo? C'è una, come dire, presa di coscienza del problema, di un esodo vero e proprio di giovani professionisti? È il tentativo di trasformare un vincolo in un'opportunità. La grande emigrazione degli ultimi anni è un'emigrazione intellettuale ad alta scolarità che costa tantissimo al nostro paese in termini di investimenti perduti, può essere trasformato in un'opportunità se solo in qualche modo riusciamo con una politica, e questa è la nostra idea, a far rientrare una parte di queste nostre nuove leve che hanno avuto, anche grazie alla scelta coraggiosa di andare via, l'opportunità di qualificarsi, robustirsi, in qualche modo anche aprirsi a nuove sfide che li hanno temprati. Se una parte di questi giovani rientra, sarà accelerata la ripresa della nostra Italia in difficoltà e a regime avremo un turbo nel motore. In quale tappa si trova ora la proposta di legge contro esodo? Lo scudo fiscale, la prima delle 5 proposte di legge, è calendarizzata in Commissione Congiunta Finanze e Lavoro. In questi primi mesi del 2010 speriamo di portarla in aula per licenziarla in un ramo del Parlamento, appunto la Camera dei Deputati, passarla al Senato e portare a casa, nella migliore delle ipotesi, entro la pausa estiva, al massimo entro l'inizio del prossimo autunno, la prima approvazione. E prima di chiudere questa prima puntata di Giovani Talenti, apriamo lo spazio Intern Active, una rubrica di confronto online per dare voce a chi di voi è espatriato oppure intende intervenire nelle discussioni che lanceremo settimanalmente. Per contattarci potete scrivere a giovanitalenti@radio24.it oppure ci potete cercare su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina fan Fuga dei Talenti. Esiste anche un gruppo sul portale professionale LinkedIn chiamato La Fuga dei Talenti, dove rilanceremo settimanalmente la discussione. Quella di oggi è: per quale motivo espatriano i giovani professionisti italiani? Per ragioni di stipendio, per maggiore meritocrazia o per le prospettive di carriera? Fateci sapere. Ripeto ancora, l'indirizzo a cui scriverci è giovanitalenti@radio24.it. La prossima settimana leggeremo in onda alcune delle risposte che ci avrete inviato. Per oggi invece finisce qui questa prima puntata di Giovani Talenti, aspetto quindi i vostri contributi online. Noi ci sentiamo sabato prossimo alle 15, sempre sulle frequenze di Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.